Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Exalge, benvenuti alla seconda puntata di Casa da Paes Radio Edition. Come abbiamo detto settimana scorsa, la puntata numero 1, il venerdì dalle 19 alle 20 va in onda su queste frequenze una trasmissione dedicata alla musica che parte dal jazz e raccoglie tutto quello che di strumentale o sperimentale viene prodotto oggi. Il nome della trasmissione è un omaggio a un luogo che veniva occupato dalle persone e dalla musica. Per fortuna lo spazio è qualcosa di ridefinibile secondo milioni di regole e non per forza deve essere delimitato da qualcosa di fisico, e quindi lo possiamo comunque occupare anche facendo radio. Se volete ci trovate sui social. Exalge è una realtà bellissima nata a Milano che ha una pagina Facebook e una pagina Instagram. E anche Casa da Paes esiste nella realtà virtuale di Faccia Libro AG, quindi se volete potete cercarci lì. Esiste anche una mail, casadapaes@gmail.com. Ma la natura di questa trasmissione è fondamentalmente musicale, quella di ascoltare quanto più possibile, quindi iniziamo subito. Il primo brano da cui partiamo si intitola Cluster ed è contenuto nell'album Racing a Butterfly del Ann-Mette Iversen Quartet Plus One. E lei è una contrabbassista danese che vive negli Stati Uniti. Questo è il suo ultimo lavoro discografico, uscito l'anno scorso nel 2020, e lo ascoltiamo subito. Thank you. Cluster and Matt Iverson Quartet Plus One, mentre ci spostiamo in Italia in un disco che ha un nome bellissimo, che è This Machine Kills Fascists. Loro sono il quartetto Tinissima di Francesco Berzatti, che suona qua il sassofono tenore, insieme a lui Giovanni Falzone alla tromba, Danilo Gallo al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria. Questa è When You Left. Thank you. Thank you. Dopo When You Left abbiamo ascoltato Moonlight in Vermont del trio Jamie Seft, Steve Swallow, Bobby Previte in un disco super figo che si chiama You Don't Know the Life. E parlando di life, il prossimo brano si intitola You Only Live Twice, colonna sonora di uno 007 qui suonato dal duo Bill Frisell alla chitarra e Thomas Morgan al contrabbasso in un disco registrato dal vivo bellissimo che si chiama Epistrophe. Thank you. Continuiamo un po' questo ping pong tra gli Stati Uniti e l'Italia, ritornando nello stivale. Camilla Battaglia è una cantante strepitosa. Qualche anno fa, 12 luni, ha pubblicato Emit Rotator Tenet, un disco che vi consiglio caldamente di andare ad ascoltare. E da questo album tiriamo fuori il prossimo brano che si chiama Event. My limbs to have left me, my limbs to have left me, my limbs to have left me, my limbs to have left me, my limbs to. Thank you. to back. And the chalky moonlight gets so tangible. There I see through placid mirrors in your eyes that all the elements already fight. There I see owl's wings are turning into smooth curtains as it flies. The acting meteor's rest, owl's wings are turning into smooth curtains as it flies. The act is in meteor's rest. I see from the reef where we lie back, back to back. I see wings spread. bazzicate la scena milanese, forse avete incontrato i Casi, un quartetto formato da Arturo Garra ai clarinetti, Vito Zeno al contrabbasso, Andrea Quattrini alla batteria e Andrea Jimmy Catagnoli al sax contralto. Il loro primo disco, Clank, è quello che io preferisco e il brano che abbiamo ascoltato si intitola Sublimare. Mentre siamo pronti per fare la conoscenza con uno dei miei artisti preferiti di questo tempo, è stato scoperto da un'etichetta di Chicago qualche anno fa e appunto sono venute fuori centinaia di brani registrati che non erano ancora mai stati pubblicati e quindi dopo aver fatto un best of, probabilmente per vedere un po' l'effetto che faceva sulle persone e avendo visto l'amore che gli ascoltatori hanno provato scoprendo la sua musica, hanno deciso di far uscire tutti i suoi precedenti lavori. Noi ascoltiamo un brano tratto da 500 Chains, che è un disco che alterna poesie e musica. Il brano si chiama Lamps e, signore e signori, lui è Ben Lamar Gay. Thank you. Ben Lamar Gay lo ritroveremo sicuramente. E intanto passiamo a un duo olandese, Ben Van Gelder e Rainer Bass. Mokomin Hi-Fi è un disco di un paio di anni fa dedicato alla loro città natale, che è Amsterdam, e il brano che ascoltiamo è Deo Volente. Anche per questo venerdì siamo arrivati alla fine di quest'ora di Casa da Paese Radio Edit. Domani sera sulle frequenze di Radio Exalge c'è un live del duo Chemical Duo, che vi consiglio di ascoltare. Se avete modo di guardare la pagina Facebook di Radio Exalge, trovate le indicazioni sull'orario per godervi radiofonicamente questo evento. Vi ricordo che se volete contattarci sui social come Exalge o come Casa da Paes trovate tutto, e se volete invece riascoltarci ci trovate qui venerdì prossimo alle 19. Vi lascio con un brano di Alpha Mist, dal suo disco Structuralism, il titolo è Glad I Lived, che è un pensiero che ultimamente credo faccia bene ricordarsi, nonostante tutto. Grazie mille dell'ascolto e buona serata e a presto. I should listen to Dr. Sebi. Same time I'm switching him off the telly. I'm nice, sugar and spice written across the belly. I'm picking my vice, chicken shop and bevies. A lot have left me, like forgotten memories. I tried to save a few at the cost of many. You died, that's as big a shock as any. Suddenly the burden that I'm lifting's not as heavy. I was playing victim, like woe is me and woe am I. I need to slow my mind, or sleep with open eyes. Today I was fine, I weaken overnight, flipping oversight. But I need rest so my coping mechanism coincides. But that's the lesser evil if you know my life. The greater evil is to let my soul decline. Don't make a sequel when I know it's time, it's time.